Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Il problema di questa maialina è appunto il fatto che ha questi unghioni che crescono in maniera eccessiva, probabilmente perché è tenuta, diciamo, in un ambiente non proprio perfetto, quindi non è una maialina che vive perfettamente libera, eccetera, e quindi non riesce a consumarsi bene gli unghioni come dovrebbe. Quindi di solito in questi casi noi consigliamo, magari dopo un giorno di pioggia, di seguire appunto la limatura di questi unghioni, che ci può aiutare molto, cioè che diciamo... Certo che se io dico che ho in casa una maialina vietnamita, sembra una frase politicamente scorrettissima, reputo dirlo John Wayne al tempo di Berretti Verdi, film che dette il senso del machismo americano in Vietnam, ma in realtà è qualcosa di molto contemporaneo, molto moderno. Questo è un sito su YouTube dedicato appunto all'esaltazione del rapporto uomo-animale, e questo veterinario racconta come si limano gli unghioni a una maialina vietnamita, che è un animaletto cilindrico nero, non proprio bellissimo da vedere, che normalmente lo vediamo nei piccoli parchetti dedicati a questi zoo safari per bambini, in cui ci sono le gallinelle, i coniglietti, le caprette, gli asinelli, anche il maialino vietnamita. Però vedere i bambini che vedono il pollo soltanto confezionato nel cellophane nei supermercati, che le galline hanno penne, zampe, starnazzano e via dicendo. Qualcuno il maialino vietnamita se lo tiene anche dentro casa. Se lo tiene dentro casa, il maiale ha le unghie, deve grattare, se non fa delle buche non si lima le unghie. Quindi se avete un bel parquet in casa vi fa dei buchi che non finiscono, quindi dovete limargli le unghie. Quindi l'amore sconsiderato per l'animale che porta a considerarlo essere senziente, essere con cui noi possiamo dividere l'affettività, la corporeità, dargli braci, abbracci. Noi abbiamo una trasmissione fantastica, Chiedimi se sono felice, con Angelo Vaira e Rosita Celentano, che parlano appunto del bello di abbracciare i delfini. Ho sentito l'ultima volta, non voglio adesso ripercuotermi, però il delfino dovrebbe prima spuntargli nella sua evoluzione le braccine e poi abbracciarti. E per la stessa cosa, che bello abbracciare la maialina vietnamita. Se lo dico, stride questa cosa, sembra detto da un reduce del Vietnam schifosamente arrabbiato contro questa, come l'esito di quella guerra, che parla delle sue scorribande terribili in terra vietnamita. No, è un maiale vero, che grugnisce, che fa la cacca, la pipì, sporca, si rotola nel fango, è zozzissimo, però te lo tenete sul salotto perché è senziente. Beh, oggi di questo volevo parlare, non ne parlo, lo dico subito con spirito critico. Io considero l'animalismo esasperato come una religione. Oggi Vittorio Feltri, una delle persone meno dotate di spirito cristiano che conosca nella vita, fa un titolo sul Libero e dice: ci hanno rubato anche la Madonna. Dio mio, dico, perché fortuna, diciamo, potrebbe essere qualcosa. Invece no, per la stessa ragione dico, non ce l'ho, non mi importa, va benissimo. Rispetto anche la persona che si porta a letto la gallina e ci si sveglia ogni mattina vicino. Però mi piace capire, e per capire meglio vi farò sentire fra poco la voce di un giovane veterinario. Un veterinario laureato da 2 o 3 anni che si occupa di animali. L'antitesi del veterinario dell'amaro che scende con l'elicottero, infila il braccio fino all'avambraccio dentro la mucca o la cavalla che ha l'intestino rovesciato, glielo tira fuori, lo rovescia, fa un casino, sangue, schizzi, budella, cacca, pipì, poi chi la ricuce, si beve l'amaro e se ne torna. No, è un ragazzo normalissimo a vederlo, potrebbe essere un frequentatore di discoteche, però ogni giorno è costretto a sentire persone gli portano cani e gatti e gli raccontano il loro bagaglio di emozioni, di passioni, di affetti, di delusioni, di tristezze, di gaiezze legate proprio al fatto che loro dividono la loro vita e la loro emotività con un animale. 800 24 00 24, da qualunque parte voi stiate è il caso di intervenire. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita, vi presenta Melog, Cronache Meridiane. E venerdì io stavo prendendo delle cose in frigo, lei si è infilata nel frigo, stavo chiudendo, sentivo ciao, ho aperto di colpo e caduto a terra. Quindi non so che si è rotto. E da venerdì a oggi com'è stata? Molto arruffata? Sì, si gonfia, si mette all'angolo laggiù, dove aveva depositato l'uovo e sta lì. E non è più uscita? No. E non riesce a volare da quando? Non esce più. Quando l'ha fatto l'uovo, mi ha detto? Ma neanche un mese fa. Eccola. Io non so se prendergli un maschietto, non lo so. Vabbè, quello adesso è una cosa che... Però mi è stato detto che già è grandicello per me. ...800-24-0024. Questa mattina parliamo di un animale, avete sentito? Adesso il problema è un pappagallino, non solo cani e gatti. Gli animali a tenere in casa sono molteplici, sono fantastici. Però è giusto che qualcuno vi dica, ma senza astio, senza malanimo, senza il minimo intento di giudicare i comportamenti altrui. Cari amici e cari amiche, quando vengo a trovarvi a casa vostra, eccetera, la casa piena di gatti, a me fa schifo sedermi su i divani che sono pieni di peli, perché devo respirare i peli del vostro gatto? Per quanto sia... con l'ultimo modello di gelatina assorbente tutti gli odori. La lettiera del gatto dentro casa fa una puzza terribile, si sente dal pianerottolo. Potete accogliermi coperte di profumi, con le unghie laccate, e col mille millanta lussuri addosso da farmi perdere la testa, ma quando sento la puzza della lettiera mi passa la voglia di entrare a casa vostra. Amici che avete il cane, che amate come un figlio, che mi portate a spasso nella vostra automobile... Io vi devo sedere sul sedile, sono quattro dita di pelo di cane, c'è la sugna sbavaticcia dappertutto, ci sono segni ovunque di quel cane, c'è un odore insopportabile, non sono più abituato, sono nato in campagna, io avevo la stalla dei contadini a 50 metri da dove dormivo, figuratemi stifo di questa roba qui, ma ci stava, eravamo nei foschi fine anni 50, era normale, la mattina a gennaio prendevano il maiale, lo scannavano, lo attaccavano a una scala e noi bambini tenevamo il secchio per raccogliere il sangue, figuratemi se mi impressiono. Oggi viviamo in un'epoca diversa, in un'epoca asettica, in un'epoca in cui certe cose ci se ne rende conto. E non mi dite questo è fatto in nome di un amore, di una comprensione, è fatto in nome di qualcosa che non so spiegarmi. Per spiegarmelo meglio mi rivolgo al dottor Stefano Corbetta. Dottor Corbetta, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ho difficoltà a chiamarlo dottor Stefano Corbetta perché ho davanti un ragazzo trendissimo, completamente in linea con tutte le più correnti mode e maniere di porsi al mondo. Però è un ragazzo che aveva la passione di fare il veterinario, ha studiato, ha fatto il veterinario e sta faticosamente entrando nella professione del veterinario. Quante ore al giorno eserciti il tuo mestiere veterinario? Ma allora, il lavoro di veterinario comunque va su turnistica. Il mio in questo caso, lavorando per una struttura di terzi, non è una mia struttura, ci sono i turni che vanno da settimana a settimana. Comunque quello, riallacciandomi al discorso che avevi fatto precedentemente, a mio avviso è davvero... corretto, nel senso che la clinica, lavorare in un ambulatorio diventa un osservatorio delle consuetudini, delle abitudini che i proprietari di animali hanno con il proprio animale, col proprio amico a quattro zampe. Stai diventando un antropologo, diciamo. Sì, cioè il tuo punto di interesse è questo. Tu non crudamente ti occupi soltanto dell'animale, ma ti rendi conto c'è un contesto di cui devi tenere conto. Certo, assolutamente, perché proprio alla luce il proprietario di animale viene dal veterinario di fiducia per curare il proprio animale, ma non diventa più solo un curare l'animale, ma il veterinario diventa anche un punto di riferimento per il proprietario, per le sue ansie, per le sue paure, per le sue insicurezze. E quindi va a illustrare, va a sottolineare il rapporto e l'evoluzione di questo rapporto uomo-animale che, come dicevi tu, è cambiato nel tempo. A mio avviso, davanti ad episodi, come abbiamo sentito prima, quello del maialino... Ma il maiale può stare in casa, secondo te? Ma allora... Ci sta sicuramente, non è che gli fa schifo, gli è da mangiare, da bere e da dormire, è contento. Certo, sicuramente la casa non è il suo habitat ambientale ideale e sicuramente poi possono insorgere delle patologie o delle complicanze come per esempio la crescita smisurata delle unghie, quello sicuramente. Però comunque appunto davanti a questi episodi non si parla secondo me più di evoluzione del rapporto uomo-animale ma proprio di un'involuzione, al contrario. Un'involuzione perché c'è un attaccamento molto spesso morboso e patologico dell'animale, dell'uomo verso il proprio animale domestico. Fammi un esempio, perché avevo una volta una signora col cane con le unghie pittate con lo smalto. Nel senso che era questa proprietaria che era venuta per un X motivo, che non era assolutamente il motivo quello dello smalto, ma davanti, quando li stavo guardando comunque gli arti, ho notato che aveva questo colore sulle unghie. Alla mia domanda gli ho chiesto, ma scusi, come mai ha il color rosso sulle unghie? E lei mi ha detto che davanti alla sua indecisione, lei era indecisa su che colore mettersi lei lo smalto, e allora aveva detto, perché non provarlo prima sul mio animale? E quindi... Ma guarda veterinario, siccome l'animale si lecca tutto, si mangia tutto, non è che gli fa bene l'animale aver sulle unghie lo smalto che a base di acetone è deleterio e velenoso. È quello che ovviamente ho sottolineato alla signora e sicuramente l'ho anche sollecitata a non combinare avvelena, più queste così, stupidate, facendomi passare il termine. perché comunque questa non è una delle tante comunque situazioni che mi si presentano comunque sicuramente in ambulatorio e in un turno soprattutto notturno di pronto soccorso, che di notte diciamo arriva di tutto e di più. Di notte, fammi capire, di notte si scatena, è come diciamo il pronto soccorso, le depressioni, i momenti di sconforto, sì, ma anche l'ansia, ti portano il cagnolino la notte, ma in realtà portano se stessi. Sì, perché molto spesso loro davanti alle paure, davanti all'ansia di non poter dormire, davanti al dire oddio devo passare una notte insonne perché il mio animale sta male e io non sto bene, allora preferisco andare dal veterinario, sentirmi dire che tutto va bene e io torno a casa e dormo tranquillo. Quindi l'alternativa all'Oxanax è portarsi un cagnolino, un gattino a parlare dal veterinario. Oppure portarsi il veterinario a casa. Beh, questo sarebbe l'ideale anche per te. Alessandro da Roma, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì, l'ascolto. Ah, scusi, non sentivo. No, volevo portare semplicemente un'esperienza personale. Io ho avuto per molti anni un gatto che ho amato quasi come un fratello, ma trattandolo sempre come un animale. E qual è la differenza? Qual è la differenza? Che si può voler bene a un animale, tenerlo in casa, senza arrivare a questi eccessi. Allora, lei dice questo, la metto in contatto con Paolo da Milano. Paolo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Invece lei? No, io credo che non l'ho trattato come un animale. Io devo dire che nella vita sono stato forse un po' sfortunato, ho perso tutto quello che uno pensa che sia importante, dall'uso delle gambe per un incidente, ai genitori, alla moglie, mi sono trovato totalmente solo e diciamo è disabile. E quindi devo dire che ho dormito per molti anni con un cane e quello che mi ha dato quel cane per uscire dalla mia situazione è molto di più di quello che cercavo. Cioè dormito ce l'aveva dentro il letto, ce l'aveva proprio? Sì, per molti anni. Adesso è mancato, quando è mancato. Scusa, non poteva provare lo stesso esperimento con un essere umano, per quanto però, sia? Mi perdoni, non è così semplice trovare un essere umano da rimpiazzare, cioè i sentimenti. Io ho girato, mi sono trovato a voler bene a un cane, forse esagerando. Ma il cane rimpiazzava gli esseri umani che aveva perduto? Ma nel mio immaginario mi dava qualcosa, nella mia solitudine, tra il Prozac e il cane ho scelto il cane. No, mi faccia capire meglio, perché avere un rapporto promiscuo con un cane e considerarlo qualcosa di assimilabile a un essere umano è abbastanza difficile da capire se uno non ci passa. Io ho avuto tanti cani nella vita, non ho nessun pregiudizio. Il cane dormirci accanto mi farebbe proprio un senso di repulsione, comunque, di repulsione proprio fisica, l'odore del cane, il cane che si lecca, il cane che biascica, il cane che non lo so, non mi sembra una cosa che mi dà un senso, il senso di conforto mi darebbe aver vicino il calore di un essere umano. Come ha superato lei questo tipo di normale differenza? Siamo due specie diverse, differenti. Ma assolutamente, ma partendo dal presupposto di lavarlo magari, io avevo... Cioè, non la vedo. Sì, ma per come quanto lei, lava il cane, poi capisco. Si lecca le palle, poi dopo la lingua gliela mette sul cuscino. Scusi, ma non... Sì, ma aveva il suo cuscino perché stava nel letto. E beh, ce l'hai accanto. Il fiato di un cane non è proprio capisco, il massimo. Mi perdoni, io capisco perfettamente che non sia magari una cosa tra virgolette normale, no? Nella no, vita. Ma la normalità però non esiste. Vita... Se lei esatto, faccia bene. Come io sono l'esempio della normalità, non esiste. Io ho trovato la mia normalità riversando forse sentimenti esagerati in un cane e io sono convinto che sono stato ricambiato, cioè traevo veramente quei sentimenti da quel cane e quello che mi ha dato molto più di quello che potevo trovare magari in quel momento negli esseri umani. Mi scrive un cretino, Nicoletti sveglia, esiste la pet therapy, mai sentita? No, non esiste la pet therapy, non nessuna evidenza scientifica, una delle tante baggianate, giusto, è chiaro che a un essere umano gli metti vicino un animale, gli dai un impegno quotidiano, gli dai un accudimento quotidiano, bene, non è una terapia, terapia è quella che ha evidenza scientifica, che la scienza dice che comunque ha un effetto, la pet therapy è una delle tante maniere per molte volte illudere le persone che possono essere guarite con un cagnolino o con una capretta accanto. Dottor Stefano Corbetta, su questa telefonata ritrovi qualcosa di simile con la media della tua clientela? Ma sicuramente la testimonianza portata dall'utente sicuramente è una delle numerose testimonianze, delle numerosi episodi che mi capitano comunque sicuramente in clinica. Tantissime persone che molto spesso sole, dovute davanti alla solitudine o davanti al fatto che hanno perso gli affetti o comunque vogliono sostituiscono l'affetto con comprando o prendendo in sé un animale, che sicuramente non c'è niente di sbagliato ed è non sicuramente, va criminalizzato assolutamente, no, è una cosa sicuramente meritevole, anzi dare affetto e comunque voler bene a un animale è sicuramente una delle cose meritevoli. Ma animale ti impegna, come allevare una pianta, è qualcosa che tutti i giorni ti dà un compito. Beh, anche di più, sì, nel sì, senso sì. Che comunque si instaura un rapporto, certo, si instaura un rapporto sì, e comunque sì. Soprattutto con un animale come il cane o il gatto, diciamo il passo successivo andando... rispetto a fare del giardinaggio, allevi un cane, hai un rapporto, ah, sì, si instaura comunque chiara, sicuramente anche un rapporto, sì, appunto sì. Ci sono anche sentimenti di fiducia, lealtà, certo, sì. E sicuramente è un rapporto che comunque sicuramente è cambiato, perché se passiamo tanti anni fa sicuramente non si aveva questo rapporto così stretto, così un attaccamento così necessario con il proprio animale domestico. Ovviamente negli anni adesso, negli anni 2000, dagli anni 90 si è iniziato a cambiare questo rapporto in cui l'animale diventa proprio un membro della famiglia. Io vedo stesso i miei genitori che da quando io e mio fratello ce ne siamo andati di casa, il mio cane è diventato il terzo figlio, nel senso che quando torno a casa i miei genitori parlano del mio cane come se fosse mio fratello. Che impressione ti fa? Ti crea problemi questo? Ma problemi no, gli dico che sicuramente si devono dare comunque una calmata, tra virgolette, nel senso che comunque è sicuramente molto, è molto bello che gli vogliono bene un sacco al mio cane e gliene voglio anch'io veramente tantissimo, ma adesso che deve diventare un membro della famiglia e ne parlano in terza persona mi sembra alquanto un pochino esagerato, ma questo no, diciamo non li giustifico ma li comprendo, perché è proprio dovuto al fatto che essendo io e mio fratello essendocene andati di casa, andandovi per conto nostro, ovviamente i miei genitori buttano le loro sull'animale, vogliono dall'animale l'affetto che io e mio fratello ormai non gli possiamo dare più perché essendocene andati di casa. Diciamo è un surrogato degli esseri umani che ci mancano, non abbiamo più capacità di elaborare il giusto corso natura, per cui i figli escono di casa, è giusto che si affranchino, gli amori sono destinati a finire, bisogna farsene una ragione, le coppie nel tempo si affievolisce la loro passione, la gente muore, bisogna farsene una ragione, e i vuoti vanno riempiti, se non li elabori li riempi con gli animali, visto che la disponibilità di umanità è sempre più rara. Walter da Modena, anche delle donne vorrei chiamassero, però sempre solo uomini, e mi risulta che le donne abbiano una grande capacità. Ah no, non, Walter aspetta un attimo, devo dare la linea, è già passata da un minuto il termine ultimo. Fermo un attimo Walter, 800 24 00 24, riprendiamo tra un istante. Uomo animale. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Il gatto matto vigila sul tetto, il gatto matto guarda tutti con sospetto dall'alto. 800 24 00 24, parliamo di un rapporto tra uomo e animale, ripeto, anticipo, specifico, non mi interessa nulla, non giudico nessuno, esprimo un mio lecito punto di vista che vi prego di rispettare, come rispetto l'ascoltatore che mi scrive: che bello dormire col cane, non sa cosa ti perdi Gianluca, per fortuna siamo diversi, sei empatico leso. Ecco perché mi devi insultare, che ne sai se sono empatico leso, che ne sai con chi mi piace dormire, che ne sai della mia vita. Io non ti critico, dico soltanto che se dormi con un cane ti becchi la fiatella del cane, ti becchi le puzze del cane, ti becchi il pisello leccato del cane che ti spalma sul cuscino, puoi fare quello che vuoi, ti becchi anche i peli. Quel cane ha salvato quel ragazzo, come a me pure mi salva. Gli animali sono meglio delle persone. Ma che vuol dire? Anche un cactus è meglio una margherita, se volete, se parliamo dello stesso ambito. Il cane fa parte del mondo animale, noi siamo animali evoluti, quindi ci siamo evoluti allo stadio canino. Poi se volete ritornare indietro e pensare che dobbiamo fare dei passi indietro nella nostra catena evolutiva, fate. Tu non puoi capire, non posso. Compenserai in altri modi. E che vuol dire compenserai in altri modi? Dormo con le bambole gonfiabili, che volete dire? L'alito degli animali è curativo. È questo. E anche le zampe emanano cose. È curativo, dottor Stefano Corbetta, veterinario, l'alito degli animali? Ma guardi, finora non ho mai letto nessuna ricerca, nessun dato scientifico. Non ci sono evidenze scientifiche. Sì. Questo che l'alito sia curativo. Anzi, molto spesso l'alitosi può essere magari sintomo di qualche problema di stomatite o di qualche problema a livello del tartaro, a livello boccale dell'animale, del cane o del gatto, ma che sia curativo, poi per l'uomo, sinceramente. Può essere poi una nuova scoperta. Mi dicevi che la tua specializzazione, cioè i motivi per cui vengono principalmente, è vomito e diarrea. Tu sei specializzato, sì, in vomito e diarrea. No, allora specializzato no, diciamo che la maggior parte delle volte mi capitano comunque, diciamo, la gastroenterite classica. E ti chiamano con apprensione, cosa ti dicono? No, vengono anche direttamente in ambulatorio dicendo che appunto il cane non sta bene, nel senso perché ha avuto diarrea e vomito, e molto spesso gli chiedi da quanti giorni, e magari è da una settimana che sta male, e si svegliano tra virgolette alle 2 di notte a portarti il proprio animale. male. Perché scatta l'ansia. Questo perché? Perché appunto la notte fa scattare l'ansia, loro non hanno voglia di passare tutta notte probabilmente a pulire e quindi dicono andiamo, facciamo un salto dal veterinario. Cioè andare di notte al veterinario, sai che non lo sapevo la gente andasse no lì. Ma comunque le strutture pronto soccorso 24 ore aperte 365 giorni l'anno sono sicuramente utili, anche perché comunque sicuramente è come esiste il pronto soccorso umano, giusto, deve essere anche quello veterinario, e sono comunque soprattutto, però diciamo che a mio avviso sono proprio una realtà proprio più della grande città di Milano, perché comunque io i miei genitori per esempio sono della Brianza ed è diversa comunque la realtà che si trova lì, sebbene comunque sono 40 km di distanza. La grande città è diversa. Senti, mi dice che ti portano anche dei problemi non propriamente legati a patologie o altro. Ti dico, non so, il mio gatto non è più quello di prima, qualcosa del genere. Sì, nel senso che molto spesso notano nell'animale, non avendo delle evidenze cliniche, non ci sono magari dei sintomi clinici evidenti, si fanno prendere probabilmente dall'apprensione o dall'ansia, e molto spesso il problema è che quando gli chiedo qual è il motivo per cui hai portato il proprio animale, mi rispondono un non è più lui, non è in lui o non è più quello di una volta, e che sono sinceramente affermazioni che comunque non è che mi permettano molto di capire, ma che evidenziano proprio che c'è un'ansia notevole da parte del proprietario nel rivolere a tutti i costi il proprio animale com'era o com'è, e magari si fanno prendere comunque dal panico, come molto spesso magari un genitore col proprio bambino quando va dal pediatra. Sì, ma anche, non so, una moglie col marito, non è più, ci sarà un'altra donna nella sua vita, qualcosa del genere. Appunto. Pensano c'è un altro uomo nella vita del suo animale. Magari ha trovato un nuovo amichetto al parchetto, probabilmente, non lo so, sicuramente. Però nel senso, diciamo che molto spesso, secondo me, il veterinario può essere molto simile al lavoro del pediatra, perché non si deve curare solo il bambino, quindi il cane, ma anche il proprietario. Io noto una cosa, dottor Stefano Corbetta, che quando io tocco argomenti che interessano in maniera diretta al pubblico femminile, le donne svicolano. Ancora non ha telefonato una donna. In realtà il tuo pubblico di pazienti è composto, penso, notevolmente anche da pubblico femminile. Sì, anzi, la maggior parte, proprio anche questo, ci sono proprio anche dei dati, proprio anche delle ricerche, che la clientela media di un ambulatorio veterinario è costituita da donne. Di piccoli animali, certo. Sì, di piccoli animali è costituita principalmente da donne, donne di ogni età, e soprattutto poi magari anche, e poi c'è la categoria a parte, quella che viene definita tra virgolette delle gattare, che sono comunque queste donne che magari hanno due o tre gatti. La gattara è sempre perseguitata dall'idea che qualcuno voglia uccidere o attentare i propri animali, quindi sì, c'è un senso persecutorio. E che hanno questo amore verso tutti e devono salvare ogni essere vivente in difficoltà, soprattutto principalmente i gatti. Cioè le gattare ne potrebbero anche 50 a casa. Certo, sicuramente, ma probabilmente vivono anche con un sacco di gatti e aiutano anche i gatti del circondario, i gatti randagi che esistono, che vivono probabilmente nel suo quartiere. Comunque sono anche questa un'altra parte della clientela, però comunque sì, di base le donne sono la maggioranza. Ti portano mai animali in stato disperato, cioè va battuto, cose del genere? Sì, succede, quello purtroppo, diciamo, è lato molto, è un lato triste della mia professione, quello dell'eutanasia. Va fatta però. Purtroppo alcune volte è necessaria, ma quando davanti e di fronte a situazioni critiche o situazioni che non rendono più degna la vita dell'animale, cioè, si ha la fortuna, almeno nella veterinaria, di poter decidere come senza finire. Problemi. Walter da Modena. Eccomi qua, buongiorno e grazie di avermi convocato. Cerco di essere breve perché ho qualcosa da 76 anni, di cui 70 in mezzo agli animali. Nato contadino, automaticamente mio papà ci faceva, io e la cugina coetanea, già da 3-4 anni partecipavamo al parto delle mucche, d'accordo? Avevamo il compito, appena partorito, di asciugare il vitello, e lui lo portava davanti alla bocca, ma gli davamo un nome. Poi ve lo mangiavate alla fine, oppure lo metteva, ve lo mangiavate e lo attaccavate al carro, non è che... No, attenzione, un attimo solo, cerco di essere breve. No, allora, c'era la vitella molto bella, rimaneva, il resto andava dal macellaio, d'accordo? Poi dopo c'era il toro molto grosso, poteva rimanere toro, oppure lo castravano, che era il bue, per trainare i carri. Certo, cioè io parlo sul serio, parlo per averlo visto. Ma lo so, ma è normale, il bue serviva a trattare, finché non sono arrivati i trattori in tutte le aziende italiane, tirava il carro, l'aratro, faceva quello che doveva fare. No, le mucche a cui avevamo dato il nome, cioè il vitello o vitella che avevamo dato il nome, ma in particolare le femmine, qualcuna la chiamavi, tanto più che io una certa gelina, c'erano dei nomi di fantasia che davamo io e mia cugina. E la certa zedina la cavalcavo a pelo. Adesso parlo dell'ultimo, che è un micino, appena nato, l'ho preso, bisogna prendere l'animale subito appena nato. Sì, poi il micio non è che lo cavalca a pelo, spero. Perché... Prego? Il micio non lo cavalca a pelo. Beh, è un po' piccolino. Vabbè, ho capito, lei è passato dalle mucche ai piccoli animali, però non credo che le mucche poi se le portasse a dormire a letto perché sentiva solo. Maurizio da Torino, oh, finalmente. Maurizio, perché le donne non chiamano? Vi sentite stanate in questa vostra capacità di sostituire affetti, amori, lacune con animali? No, io ho spostato l'attenzione su una cagnolina che non ho mai avuto in tutta la mia vita, ho 69 anni, e siccome mi sono incontrata con un carcinoma al seno, beh, questo lo capisco. Dovendo avere controlli ogni 4 mesi, ero molto puntata su questa cosa. Ho deciso di deviare la mia attenzione e le mie cure a un cagnolino. Però Maurizio, lei prima ha chiamato un signore, ha avuto un incidente e non camminava più. Lei mi parla di un caso importante di patologia. Mi rende conto, in casi come questi, ma va bene qualunque cosa, mi rendo conto, uno deve comunque compensare una situazione di stress notevole, e lo capisco totalmente. Ma la signora che si sente depressa perché vede il cane, dice non è più quello di prima, e va di notte al veterinario, è un'altra vicenda. Non si senta coinvolta dal mio apparente cinismo. Capisco perfettamente, chi si trova in situazioni così estreme va bene qualunque cosa per ritrovare la serenità. Io parlo di situazioni banalmente di vita quotidiana e normale in cui ci si crea un legame di tipo affettivo, una dipendenza amorosa, una sorta di ansia prestazionale con un animale. Simone, buongiorno. Buongiorno, sì. Mi permetto di intervenire magari... No, non mi parli però della pet therapy, mi dica che è una terapia, scusi, se no tocchiamo subito. Io sono assolutamente un istruttore cinofilo da 15 anni, non applico e non lavoro nell'ambito della pet therapy. Ma io ho un figlio autistico che va a cavallo e sono felice, si diverte come un matto, ma non è una terapia, è il benessere. Solo di dire, scusi però posso parlare, che se non c'è una testazione, diciamo così, una dimostrazione scientifica, allora non è valida neanche la psicoterapia umana. Infatti, perché non è neanche per quella. Infatti, sono dei ciarlatani. Sembra un'affermazione un po' forte. No, ma lo dico, non prendo la responsabilità. Da parte sua, la psicoterapia non è evidenza scientifica. Dite questione. Quello che volete, ma è così. Per me equivale. Questo, mi sembra che la questione del rapporto uomo-animale sia stata affrontata in maniera molto superficiale, anche un po' grottesca in questa puntata. Perché secondo lei? Perché innanzitutto c'è una scienza che si chiama zoantropologia, che studia da anni la relazione e le tipologie di relazioni che si sono venute a creare tra gli uomini e gli animali. Quindi allora una signora che dice il mio cane non è più lo stesso e va dal veterinario, lo trova che sia un equilibrio della relazione. Anche l'ironia con cui è stata affrontata la questione dal veterinario, che dovrebbe essere un collega, che mi auguro sappia che... Vabbè, ma scusi, mica stiamo dissacrando, ragazzi, mica adesso non è che esiste il grande dio degli animali che si sente bestemmiato se parliamo in maniera leggera e superficiale. Stiamo affidando ciò che abbiamo distrutto, grazie a Dio, e razionalizzato come sacralità e superstizione nel mondo animale. Stiamo esagerando. Io capisco che lei ci lavora e ci vive sugli animali, ma non è che gli animali si offendono, si mette un po' di ironia sulla signora che porta il cane allo psicanalista. Me ne dia modo, capito? Potrebbe dirlo di me, non mi offenderei, mi è stato detto di tutto. Non è che il signor animale rimane colpito. Stiamo veramente ponendo su una sorta di altare il mondo animale. Mi sembra esagerato. Non che poi se uno vuol farlo fa benissimo, per anni abbiamo bruciato incenso a dei con la testa di bue, quindi va benissimo, mettiamoci il cane e il gatto, la stessa cosa. Ci fermiamo un istante, traffico. Melog, cronache meridiane. Abbassiamo i toni, non mi voglio arrabbiare, ma sono anche un po' stancato di dover avere paura di dire le cose, paura di offendere qualcuno. Nessuno si offenda. Chi di sicuro, sono convinto al 100%, non si offende, sono proprio gli animali. Ma cosa gliene importa agli animali di questa sorta di dibattito tra gli uomini, quanto loro siano umani, intelligenti, senzienti? Basta li fai star bene. L'animale deve stare bene, sta sereno, sta tranquillo, provvedi ai suoi bisogni, gli fai stare un ambiente in cui non è stressato, è contento, è felice. Cosa gliene importa se noi lo amiamo, non lo amiamo, se la sua depressione ci mette un problema? Allora, dottor Stefano Corbetta, commentiamo la telefonata del suo collega, che ha detto: mi meraviglio del collega che ironizza sugli animali. Ma allora, sicuramente lungi da me ironizzare o sicuramente fare di un erba un fascio tutte le esperienze, tutti gli episodi che mi sono capitati. Scusi, dottore, l'ironia non è un insulto. Certo. È una lecita capacità di affrontare una realtà con un tono che non sia sempre quello grave della persona che sente sottoposto a un giudizio superiore. Anche perché sicuramente non stiamo condannando nessuno. Quello che voglio dire è che sicuramente concordo che la zoantropologia va a studiare il rapporto uomo-animale, e questo senza dubbio. Però appunto, davanti a episodi, davanti a testimonianze che si percuotono, che si figurano tutti i giorni, giorni in ambulatorio, sicuramente mi vanno a testimoniare che è cambiato questo ed è evoluto questo rapporto uomo-animale col tempo. E davanti però a una richiesta forte da parte del proprietario di umanizzare o di antropomorfizzare in maniera esagerata l'animale, e che va comunque sicuramente anche a ledere all'identità propria dell'essere animale, secondo me non si parla più di evoluzione ma di un'involuzione. Per questo che dico che probabilmente molto spesso ci sono comunque anche dei lati negativi, c'è un attaccamento smoderato da parte dei proprietari sugli animali. Lo basti pensare l'atteggiamento talebano comunque da parte del pubblico. Stanno arrivando i messaggi: ci siamo meravigliati te, ci piacevi, ci hai deluso. Io non ho atteggiamento critico, censorio o livoroso. Osservo una realtà nell'evoluzione della contemporaneità. L'osservo qualche perplessità. Improvvisamente state trasponendo su un piano di intoccabilità, intangibilità, di sacralità il rapporto uomo-animale, che è qualcosa positivo, fa star bene. Nasco contadino, ho vissuto in campagna fino a un'età abbastanza matura. Ho avuto cani per casa sempre, ma al momento che i cani cominciano a mordere i miei figli piccoli, i cani li ho levati di casa e per me non è stato un problema, non mi mancano, vivo lo stesso, non è un problema. Se per qualcuno invece è così visceralmente importante questo rapporto, mi sta bene, ma permetteteci, possa essere un pensiero diverso. Mariangela da Perugia, buongiorno. Buongiorno Mariangela. Buongiorno dottore, sono Mariangela da Perugia e stavo ascoltando proprio i suoi commenti in questo momento, perché li sentivo anche per telefono. E volevo dire che il dottor Nicoletti è un pochino troppo scontento, nel senso che... Ma io sono felice, perché è scontento? C'ha l'approccio anche con le persone che parlano, come con quel signore di 3 o 4 minuti fa che gli ha sbattuto il telefono. Non gli ho sbattuto, per dire, io ho un dovere, mi ascolti, se no ci diamo sulla voce, mi scusi, io devo tenere i tempi della trasmissione, che dura 45 minuti e ha delle scansioni, e devo portare comunque a casa un discorso compiuto, non posso far parlare in maniera interminabile le persone. Ha espresso un concetto, io ho capito il suo concetto e ho detto la mia cosa. Come faccio a esprimere il suo concetto adesso? Non è che interrompo il gusto di interrompere, devo dare il tempo alla trasmissione. Adesso parli pure. D'accordo. Allora io le volevo dire che l'approccio degli animali è completamente cambiato da 50 anni fa fino adesso. Quello sto osservando. E la gente che adesso è molto sola e molte volte da sola, anche se ha figli, parenti e nipoti, si aggrappa all'animale, che probabilmente la gratifica molto di più. Quindi non si può criticare così. Ma non critico, osservo. Signora, l'osservare e descrivere non è criticare. Io osservo e descrivo. Trovo abbastanza singolare in questa fase di evoluzione dell'umanità, in cui siamo iperconnessi con il resto del mondo, scopriamo che il rapporto animale diventa il sostituto di un rapporto con gli umani. Poi se è bene o male non sta a me dirlo, non faccio il moralista, però lo faccia dire perlomeno. Lei mi ha confermato: gli uomini sentono soli, prendono animali al posto di uomini, l'animale dà le stesse cose. L'animale non è un uomo, ha una struttura e uno stato evolutivo diverso, è l'uomo che attribuisce agli animali. L'animale non è che parla. Al veterinario qualcuno dice: il mio gatto mi parla, vero dottore? Certo, sicuramente. Ma quello che voglio dire io è che sicuramente curare e voler bene e affezionarsi a un animale è, anzi, è una cosa bellissima, è una cosa meritevole, e sono io il primo a farlo, perché poi lo faccio per mestiere, che è quello curare l'animale. Quello che noi andavamo a osservare, a testimoniare, erano gli episodi di antropomorfizzazione o di umanizzazione dell'animale, cioè cambiare l'identità propria dell'animale e trasformarla in qualcosa che non è. Che lo immaginiamo noi che sia così, non c'è conferma. Se un domani venisse il mio gattino e mi parlasse e mi elencasse i temi fondamentali della critica alla ragion pura, direi: vedi, l'animale parla, mi sono sbagliato. Ma finché non lo fa, per me un gatto rimane. Certo, assolutamente, per questo dico che molto spesso è questo il rapporto che è cambiato, e come ha ragione Mariangela, sicuramente il rapporto è cambiato, e avere comunque, se una persona è sola, avere degli animali e farsi circondare dall'affetto degli animali, assolutamente, io sono più che felice ed è una cosa bellissima che farei anch'io. Anche perché è il tuo pane. Appunto, quindi cioè, meglio, nel senso, di certo così, non sputo nel piatto in cui mangio. Fino alla fine del mondo. Però osservi, è un veterinario che invece di fregarsi le mani dice: più la gente impazzisce in questa direzione più guadagno. Io dico, io osservo che comunque cambia qualcosa radicalmente. totalmente. È cambiato il rapporto tra uomo e animale. Sia bene, sia male, andiamo verso una sorta di nuova pietas verso gli esseri senzienti e mi sta bene. Andiamo verso una sorta di vuoto totale che tagliamo a priori la nostra capacità di relazionarci, perché dice finisce il rapporto con una persona, mi prendo un animale e lo sostituisco. Non cerco altre persone, non mi rimetto in gioco, non mi do da fare, non rischio di bruciarmi nuovamente, di ricrearmi delle storie, delle situazioni, di dare una elaborazione umana a un lutto, a qualcosa che scompare. No, prendo un animale e sostituisco. Mi sembra un po' affrettata, vero dottore, questa soluzione? Sicuramente, nel senso che io comunque non voglio farne, come dicevo prima, un'erba un fascio, però sicuramente il fatto è curare gli animali, sicuramente è una cosa, quello che faccio io durante tutti i giorni, ma sicuramente ora bisogna anche prestare molta attenzione anche al proprietario, ed è una cosa che comunque a me piace, nel senso, perché non è paziente solo l'animale, ma anche per me il proprietario. Ci servirà una seconda specializzazione in psichiatria sicuramente. Grazie, io ho dato, anche voi avete dato e non me ne volete. Alla prossima. Grazie a tutti.